Vieni all'Apollo stasera, no? Non lo, no, stasera ho una cena di famiglia proprio. Ho visto che lo replicano anche domani pomeriggio alle 4:30. Ah, Ho ok. visto per caso, insomma, se ti capita, mi fa piacere. Allora, un attimo. Siamo con Francesco Cordio, regista del documentario Roma Golpe Capitale, che sarà in programmazione giovedì 26 aprile all'Apollo 11 a Roma, ma sta facendo anche altre tappe. Francesco, ben trovato. Buongiorno, grazie Federico. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo subito questa storia. Sì, diciamo che la vicenda politica di Ignazio Marino, dell'uomo Ignazio Marino, del sindaco di Roma defenestrato, mi ha suscitato una grande tristezza, diciamo. Percepivo che c'era qualche cosa che non veniva narrata. I giornali, i suoi compagni di partito, si erano scatenati. Social network, non ne parliamo, contro Ignazio Marino. E c'era qualcosa che non mi tornava in quello che veniva raccontato. E di sicuro, era la mia convinzione, e poi nel film esce fuori anche da voci importanti, quella del procuratore Giancarlo Caselli. Di sicuro, aveva dato fastidio a più persone, a più lobby. E a quelle consorterie che si erano consolidate negli anni a Roma e che incancrenivano e tuttora mettono in difficoltà chi vuole gestire la città per risollevarla. Così, subito dopo la sua cacciata, ho cominciato a mettere insieme un po' di pezzi. Ho fatto una lunga intervista a Ignazio Marino e nel film i contributi più vari, oltre al citato procuratore Caselli, c'è la giornalista Federica Angeli di Ostia che racconta quello che è successo a Ostia in quei mesi con Ignazio Marino e poi dei giornalisti, direi più dei blogger, cioè Francesco Luna e Massimiliano Tonelli di Roma Fa Schifo. Roma Fa Schifo poi rappresenta proprio quella parabola di percezione che si aveva nei confronti di Ignazio Marino. Devo dire che Roma Fa Schifo forse l'ha vissuta al contrario perché all'inizio era molto dura e severa nei confronti dell'operato del sindaco e poi verso la fine, poco prima della cacciata, insomma qualche mese prima, invece ha capito che si stava davvero lavorando con una marcia diversa e lo ha supportato e lo ha difeso. Senti, che quadro emerge da tutta questa tua ricerca, queste tue interviste? È un quadro piuttosto preoccupante e devo dire che probabilmente la cosa più triste è che la forza principale che ha operato contro Ignazio Marino è stato proprio il suo stesso partito, cioè il Partito Democratico Romano e probabilmente anche quello nazionale, non difendendo assolutamente Ignazio Marino, ma anzi attaccandolo, facendogli un'opposizione molto dura. Ha portato a questa situazione. Oggi qualcuno di quei consiglieri che firmò dal notaio le proprie dimissioni riconosce un grave errore, però all'epoca fu fatta una ferita alla città e a tutte le persone che lo votarono molto profonda, molto grave e tutt'oggi il Partito Democratico ne paga le conseguenze. E come un po' se questo che io chiamo golpe fosse l'inizio della fine del Partito Democratico e anche del politico Matteo Renzi. La cosa che forse è sfuggita più di tutti, al di là delle costruzioni ad arte di certe situazioni che volevano mettere in difficoltà, hanno messo in difficoltà Ignazio Marino, quindi al di là di scontrini Papa, Panda Rossa, eccetera. La cosa che ha dato più fastidio alla politica e alle lobby è stata l'idea di voler costruire un villaggio olimpico in un posto diverso da quello che voleva il CONI, da quello che voleva Montezemolo, Malagò e Renzi, che volevano costruire, guarda caso, sui terreni di Caltagirone e che pensavano di quasi gestire le Olimpiadi come se fossero una cosa loro. Le Olimpiadi portano un indotto di denaro grandissimo, come nessun'altra opera al mondo, direi, e l'idea di poter diciamo approfittarne è stata così golosa, e diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio quella, ovviamente non dichiarata, non è stata esplicitata in nessun modo, ma se uno analizza con attenzione, alla fine probabilmente è proprio quello. Allora, rispetto a chi osservava un po' da fuori questa vicenda, sicuramente si è visto chiaramente che il partito voleva farlo fuori, il suo stesso partito, ma d'altra parte c'è stata anche la vicenda maldestra, in effetti, della questione scontrini e paralleli e simili, insomma. Diciamo che un sindaco di una città che non possa entrare con la propria auto nel centro storico e che violi la ZTL sembra piuttosto ridicolo, tra l'altro abitando in centro. E tra l'altro proprio in questi giorni stanno uscendo notizie che il sistema del comune emettesse multe a gogo a chiunque in quegli anni, solo che uscirono solo quelle e non le sue. C'era, a parte il fatto che poi un magistrato, un giudice ha verificato che c'era stato proprio un hackeraggio del sistema per fare arrivare puntualmente delle multe al sindaco della città, ma insomma proprio in questi giorni invece è uscito che migliaia di multe sono state mandate non corrette perché non venivano aggiornate le liste delle auto che potevano entrare. Ma al di là di questo e al di là di Cene, che ancora dobbiamo capire bene esattamente quali sono le motivazioni della sentenza d'appello, perché non sono state ancora pubblicate, di un processo che in primo grado l'ho visto assolto, non entro nel merito, possono essere stati fatti sicuramente degli errori, parliamo comunque di cene per un totale di 12.000 euro in 2 anni e mezzo, e molte di quelle cene sono servite per portare nelle casse del Campidoglio milioni di euro, quindi diciamo non c'è, sono state ottimi motivi per creare la notizia, per coprirlo di ridicolo e per appunto avviare quella macchina di ridicolizzazione e di fango che poi hanno portato anche il cittadino medio a pensare ma sì, lasciamo stare, insomma mandiamolo via. E devo dire con orgoglio, molte persone che stanno vedendo il film in questo periodo riconoscono e leggono con più precisione quello che è accaduto, non ultimo Paolo Virzi, che ha fatto una dichiarazione ai giornali pochi giorni dopo averlo visto dicendo: mi sono sentito stupido guardando quel film perché anch'io all'epoca rimasi vittima di quella narrazione e dissi ma sì che vada via, dopodiché mi rendo conto oggi è stato vittima di un'operazione torbida, queste sono le sue parole, e un po' a questo serve il film. Per me, diciamo che in quei mesi soffrivo il fatto di non sentire la versione del sindaco, perché non veniva intervistato, non gli veniva dato uno spazio, ma si sentiva solo una campana. Per me questo documentario è un po' restituire la parola a quella persona, ma soprattutto la dignità. E il film vuole essere comunque un'operazione di racconto che possa essere una testimonianza anche per il futuro, perché c'è un modo diverso di fare politica in Italia, lo si può praticare, e quell'esperienza amministrativa deve essere comunque un esempio per il futuro. Francesco, dalle cose che hai raccontato, dando una lettura del film, del tuo lavoro, due cose mi colpiscono. La prima è la vicenda irrituale e abbastanza bizzarra delle dimissioni dal notaio dei consiglieri. La seconda è la soluzione alla fine suicida, partita da una furbizia con interessi economici, ma poi si è risolta con la catastrofe per quel partito. Sì, è andata esattamente così. Si è pensato di consegnare la città ai 5 Stelle mettendoli alla prova e dimostrando agli italiani che la loro incapacità di governare era tremenda, era fortissima, e che quindi poi nel 2018 il PD avrebbe vinto facilmente le elezioni. Sappiamo bene com'è andata, quindi più che una visione politica di ampie vedute, è stata proprio misera e sicuramente perdente. Senti, che percorso sta facendo il tuo lavoro? Il film, come si può immaginare, ha avuto difficoltà distributive molto forti. E abbiamo debuttato in un cinema di periferia di Roma, Laurentino, alla Sala Barbarigo, che ci ha ospitato. Inizialmente dovevamo fare un paio di proiezioni, poi siamo rimasti, se non sbaglio, per 7-8 proiezioni, con la sala sempre strapiena. A quel punto c'è stato un interesse anche da parte dei giornali, di alcuni giornali che sono stati costretti a parlarne, chiedo scusa, sono stati costretti a parlarne, e così il film è andato anche al Cinema Farnese, dove è stato accolto da grande entusiasmo. Abbiamo sempre avuto il sold out per più e più proiezioni, e ora comincia a circolare per l'Italia. È stato a Palermo, a Cesena, a Forlì, e nelle prossime settimane saremo a Napoli, Torino, Modena e ancora Roma. Insomma, a Roma credo che il film sarà programmato ancora per molto tempo. Allora, ricordiamo intanto l'appuntamento per giovedì 26 aprile all'Apollo 11 a Roma. E nel salutarci, Francesco, ti chiedo i riferimenti web per saperne di più anche rispetto al calendario di proiezioni. Grazie, sì, c'è una pagina Facebook molto aggiornata, Roma Golpe Capitale, si trova facilmente, è tutto attaccato, Roma Golpe Capitale, e lì aggiorniamo costantemente su tutte le future proiezioni. Benissimo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie Federico, buona giornata. Ciao.